Il sabato del villaggio. Ci si risveglia ancora in questo corpo attuale, dopo aver viaggiato dentro il sonno. L'inconscio ci comunica coi sogni frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario, un padre di famiglia, per questo in sogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari. Restano i nomi e cambiano le facce e l'incontrario. Questo era Caffè de la Paix di Franco Battiato, una canzone leggendaria da un album leggendario. Parliamo di caffè molto particolari, non caffè nel senso di bevande e di tazzine, ma proprio di luoghi in cui sostare, magari luoghi che sappiano anche un po' di cultura, un po' di letteratura. Ce ne parla il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, buongiorno. Ti ho accolto bene con Battiato? C'entra? È a tema? È a tema, mi hai accolto benissimo. E devo dire che in questo paese in cui sono più gli scrittori che i lettori, parlare ogni tanto di libri, parlare di caffè dove si può leggere, forse vale la pena e forse fa anche bene. Beh, devo dire che è molto entusiasmante quello che sta succedendo in giro per l'Italia, perché nascono parecchi caffè letterari, nel senso dove si può sicuramente prendere un caffè, mangiare una torta oppure mangiare anche qualcosa di più sostanzioso di una torta, un panino, e al tempo stesso si può leggere, si può conversare, si può aprire il computer e navigare. Quindi è un luogo, sono luoghi ormai veramente che sono vivi in ogni città, ma addirittura anche nei borghi di periferia. E allora io voglio cominciare questo giro da Firenze, perché Firenze sembra la più attiva da questo punto di vista, forse il passato culturale di questa città che sicuramente sospinge su questa direzione. Bene, a Firenze i locali sono tanti, io ne cito tre. Cito la Cité, che probabilmente è quello che viene più famoso, il più conosciuto, e ci si ascolta la musica anche in questo posto, il tango in particolare. Che meraviglia, Firenze, il caffè, il tango, una cosa scicchissima. Sì, si balla il tango. Io credo che si ascolti solo, però è un po' difficile ballarlo. Però quel sottofondo del tango, secondo me, non è male. Magari, chissà, se mettono anche qualche volta Bolero. Ma poi si mangiano le crostate, che è quella specialità. E crostate ci sono ben 10.000 volumi da consultare, quindi meglio di così non so cosa si voglia. E si beve vino anche, e appunto ci sono due piani, uno soppalcato, e si trova in Borgo San Frediano. Poi sempre a Firenze c'è un altro posto che è stata una ristrutturazione molto bella, è quello dell'ex carcere Le Murate. Ebbene, questo ex carcere è diventato uno spazio dove c'è teatro, dove si può bere un aperitivo, si può mangiare qualcosa e si possono leggere anche qui dei libri. Quindi sicuramente anche questo è un posto abbastanza centrale, perché è in Piazza delle Murate, quindi diciamo che è nel luogo molto popolare di Firenze. E poi ancora la caffetteria delle Oblate. Bene, la biblioteca delle Oblate è un posto abbastanza di ritrovo per gli studenti a Firenze, e diciamo che offre settimanalmente anche presentazioni di libri, di personaggi, quindi anche qui si può bere un caffè, si può cenare e si può ascoltare della cultura e fare della cultura. Passiamo a Milano, anche Milano diciamo che è molto attiva. Io per ora vi cito tre locali. Uno si chiama Open. Open tra l'altro è un posto dove si affittano anche dei tavoli per chi è senza lavoro, chi ha un lavoro magari molto, molto diciamo ristretto, non può affittare un ufficio per un certo periodo di tempo. Quindi bello lavorare al caffè, vantaggio. Mi piace molto l'idea di affittare un tavolo al caffè per lavorare, mi piace tantissimo. Sì, poi anche perché si fa amicizia, uno si sente molto più vivo che stare a casa magari in uno squallido, quegli squallidi uffici che che vengono offerti a giornata, insomma qui è molto più vivo. Poi c'è un altro che si chiama Gogol, un altro locale sempre a Milano. Quindi andiamo a Roma, c'è un posto che si chiama proprio Caffè Letterario, e c'è un altro che si chiama Giuffà. A Verona c'è il Minotauro, e a Bologna Infoshop. Quindi io mi sono fermato qui perché sennò avrei potuto continuare a fare il giro d'Italia, però volevo semplicemente dare una mappa di quello che... E poi è anche segnalato una tendenza che a me personalmente appassiona molto, mi piace molto l'idea del caffè in cui davvero magari fermarsi a leggere, incontrare, parlare, scambiare delle opinioni. Bella, beh, molto diciamo bella questa tendenza. Diciamo che torniamo indietro, andiamo nell'Ottocento magari a Vienna, dove c'erano questi caffè, dove sì è vero non c'erano i libri, però sicuramente erano caffè dove si passavano delle ore, quindi in molta tranquillità. Era un po' invece ora i caffè, i bar in Italia, ma anche in giro per il mondo, insomma uno prende un caffè in 30 secondi e va via, poi si lamenta magari che il caffè non è buono, è evidente, sì. Tasseggiato così in velocità. Ma va bene, va bene. Allora io direi passiamo ora... al nostro itinerario, no? Perché io ho già carta e penna, perché mi hai promesso che mi porti per osterie. Sì, dunque, e allora, io sono diciamo felicissima. Io addirittura tento questa strada dell'osteria a Milano, qualcuno riderà. Devo premetterlo per non fare brutta figura. Le osterie, quelle di un tempo d'antan, sicuramente non ci sono più. Ci sono osterie in luoghi che erano magari osterie di un tempo, che è passato il tempo, si sono anche un po' emancipate, però devo dire che ce ne sono alcuni, sono divertenti, perché o trovi il campo da bocce ancora, oppure trovi altre cose amene, come ad esempio l'osteria del biliardo. Ecco, io non ti dico, guarda, io adesso ascolto, poi ti dico dove sono stata io venerdì scorso, vediamo se me la citi anche tu. C'era anche il campo da bocce. Allora, il campo da bocce che io conosca è all'osteria del Grand Hotel. Era un'altra, però questa me la segno, così la prossima volta vado lì. Questa qui magari la aggiungi tu. Allora, dimmi. Io voglio partire da una che ha fatto storia, che è l'osteria del treno. Perché ha fatto storia? Perché è un po' è nata nel periodo in cui c'è stato il grande boom dello slow food, anzi allora si chiamava Arcigola, partita nell'89, perché dentro c'è un personaggio che io apprezzo molto, stimo molto, si chiama Angelo Bissolotti. Questo Bissolotti cammina in lungo e in largo per tutta Italia alla ricerca dei prodotti, quelli molto rari, molto molto poco conosciuti. Quindi andando in questo posto veramente, magari i piatti non saranno straordinari, fatti in maniera perfetta, però dentro c'è sempre un prodotto che ci porta a un artigiano, una storia di un artigiano. Quindi credo, io lo giudico molto bello proprio per questo. Poi è molto affine anche alla ricerca che io ho fatto per anni, forse per questo che ho una predilezione molto particolare. E poi un'osteria, ho parlato prima dell'osteria del treno o dell'osteria della stazione, sembra molto divertente. Allora devo dire che questo, lo devo citare, questo locale me l'ha segnalato Peter Bescapè. Ah, il nostro Peter in regia. Il nostro Peter in regia, che mi ha segnalato questa, non sa neppure che ci sono andato, perché me l'ha segnalato tanto tempo fa. Sono andato, e l'osteria della stazione è in via Popoli Uniti. Ecco, bisogna fare molta attenzione, perché a Milano ci sono due osterie della stazione. Questa è quella autentica, in via Popoli Uniti, quindi ricordatevelo bene chi prende appunto. Allora, questa cosa c'ha di particolare? Che oggi c'è alla guida di questa osteria un friulano, ovviamente ne risente la cucina ne risente, come, perché si comincia sempre col frico, quindi frico si sa, no, che è non formaggio. Proprio milanesissimo, diciamo, è fatto di patate, ma guarda, ormai hanno perso tutto la milanesità, perché anche l'osteria del treno, l'osteria del Grand Hotel, cioè un po' hanno perso tutto. Ci sono dei piatti, perché anche in questa osteria della stazione ad esempio si trova il Rustin Negà. Il Rustin Negà forse è uno dei piatti milanesi meno conosciuti, tutti magari si rifanno alla cotoletta, ma il Rustin Negà è veramente un piatto che si trova solo a Milano. Questa osteria però è autentica dentro, nel senso che sono passati diversi proprietari, però l'arredamento è rimasto, sono rimaste delle scritte. E poi qua e là, magari per dare un tocco di autenticità, si vedono dei vecchi berretti di ferrovieri, di capostazione. E con molta onestà il proprietario dice: guardate che questi io li ho messi per dare un tocco. Però devo dire... vabbè, dai, con onestà, dai. No, si mangiano degli ottimi affettati perché sono friulani, degli ottimi vini perché arrivano anche dal Friuli. E poi c'è anche una ricetta che è quella del grande Brera, salsiccia, borlotti e vino rosso. Quindi ecco, un po' di milanesità si trova assolutamente qui. E poi ancora, come dicevo, c'è la cooperativa Sempre Uniti. Cos'è la cooperativa Sempre Uniti? Addirittura questa qui risale al 1906, è nel quartiere Affori, oggi ribattezzata Osteria del Biliardo, perché dentro appunto ci sono i biliardi, dove si gioca veramente in questi tre biliardi, aperto solo di sera, ma ogni anno fa anche degli incontri sui libri gialli, sui noir, a cui abbina anche una cena. È un particolare, mentre nell'altra osteria era un friulano, qui è un rumeno, quindi no, un albanese, scusa, ma il padrone è un albanese, ma molto ferrato, devo dire, sui prodotti. È uno che conosce bene i prodotti, forse molto meglio di molti osti italiani. E cosa si mangia? Si mangiano innanzitutto dei bigoli alle acciughe, si mangiano dei caserecci con pesto di pomodoro, le linguine con bottarga, insomma, è vero. Quindi, non c'è l'autenticità, ma da quando manca l'autenticità a Milano? E poi Milano possiede veramente una grande cucina milanese? Ecco, questi sono interrogativi che io lascio, non voglio rispondere perché io non sono milanese, abito a Milano solo da 25 anni, quindi non posso decidere io se c'è o non c'è una grande cucina. Poi l'osteria che ho detto del Grand Hotel, l'osteria del Grand Hotel addirittura è la più vecchia di questa, in cui c'è la gestione più vecchia. Perché? Perché parte nell'86. E anche questo era un covo di Arcigola, un covo di Arcigola dove tuttora si continua a fare anche delle degustazioni di vino, perché questo ristorante ha una peculiarità, una larghissima carta dei vini, una carta dei vini forse che pochi anche ristoranti se la possono permettere. Qui si mangia l'oca, si può mangiare l'oca, si può mangiare dei primi piatti a base di carne, e poi ancora ovviamente si mangia la cotoletta alla milanese, e devo dire che si beve bene, si mangiano anche dei dolci molto interessanti, cosa che nelle osterie certo, capita veramente, veramente di rado. Allora tu mi devi dire qual è la tua osteria, perché magari io non ho... No, allora non è famosa per la cucina, però sono andata a mangiare alla Balera dell'Ortica, perché abbiamo deciso con le mie amiche che cominciamo a frequentare le balere. Quindi Davide, se vuoi venire a ballare con noi adesso ci lanciamo. Se ma vuoi venire anche tu. Sono romagnolo, ma purtroppo non sono un grande ballerino di liscio. Vabbè, dai. Quindi, vabbè. Se trovo qualcuno che mi insegna, molto molto molto molto volentieri. Fantastico. Però magari si può andare a giocare a bocce. Esatto, sulle bocce possiamo andare sereni. Oppure anche a biliardo. Ecco, vado liscissima. Davide, la prossima settimana io sarò a Sanremo, quindi io ti dico: preparati delle cose sulla Liguria, perché voglio sapere tutto di cosa ci consigli per Sanremo, per la zona, per la regione. Va bene? Ci risentiamo il prossimo sabato. A Sanremo non è che ci sia, lo so, ci siano tanti ai noi ristoranti. Ai noi, vabbè, ce n'è uno molto noto, però è molto caro, quello magari non lo consiglio. Dai, vedremo la prossima settimana, ti do i compiti a casa, al prossimo sabato. Grazie, ciao Davide Paolino, e ci ritroviamo tra pochissimo dopo una breve pausa.